Rassegna Stampa Europa. Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di Radio 24, buon sabato da Giulia Crivelli. È la rassegna stampa europea e cominciamo dall'Economist. Settimana scorsa, ricorderete, aveva una copertina dedicata ai diritti dei gay, Gay Pride, che tra l'altro oggi è interamente ripresa, o meglio, nel numero in edicola da ieri, quindi se lo volete leggere oggi lo potete fare oggi, nel numero in edicola da ieri di Internazionale è proprio la storia di copertina interamente ripresa da quella che avevamo segnalato ieri. La copertina di questa settimana invece dell'Economist è dedicata a Ebola, The War on Ebola, che poi in americano dicono Ebola, se avete sentito qualche telegiornale inglese o americano. In ogni caso, insomma, il virus è quello e si cerca di capire come arginarlo, naturalmente senza cercando di non gettare nessuno nel panico, perché poi è un'epidemia che, se si guardano i numeri, se si ragiona sui numeri, naturalmente fa molti meno morti di tantissime altre malattie e anche di tantissimi altri accidenti che possono capitarci, a cominciare da quello che succede sulle nostre strade. Ma passiamo ad altro, perché l'Economist questa settimana non si occupa tanto né di Italia né di Europa, ma è appunto più concentrato sulle questioni internazionali. Allora vediamo invece la Frankfurter Allgemeine Zeitung, il più austero quotidiano tedesco, la cosiddetta FAZ, che citiamo spesso, che si occupa proprio di noi in relazione però alla finanziaria, quella che una volta si chiamava finanziaria, adesso si chiama DEF, presentata mercoledì scorso da Matteo Renzi. L'Italia rischia il conflitto sulla politica di bilancio, è il titolo scelto da Tobias Spiller, che è da molti anni il corrispondente della FAZ in Italia, e si sottolinea che Renzi ha generato dei dubbi tra gli investitori e che, se negli ultimi mesi sono stati ritirati 67 miliardi di euro dall'Italia, una fuga di capitale maggiore ci fu solo nella crisi di fiducia del 2011, lo ricorderete, quando c'era lo spread a livelli che per fortuna adesso non tocchiamo da tanti mesi, Renzi non se ne preoccupa, trova più popolare, scrive Tobias Spiller, fare felici gli elettori con l'annuncio di tasse più basse e aumenta il deficit, passi motivati dalla crisi, ammette la FAZ, che riferisce però tutto il ragionamento che sta facendo Renzi e avvalendosi, insomma, di tutte quelle di quegli economisti, di quelle teorie economiche che favoriscono una politica espansionistica in tempi di recessione, finanziata in parte dallo Stato. La propaganda dimentica purtroppo di dire che in un'economia in stagnazione un deficit di bilancio porta sempre anche l'aumento del debito. Passiamo alle Figaro, perché c'è un altro paese, sapete, che ha già annunciato, tra l'altro, al contrario di noi italiani, che siamo ancora lì a fare un po' a misurare molto bene i conti e il rapporto tra deficit e PIL, la Francia ha già detto che il famoso rapporto deficit PIL, il famigerato 3%, lo supererà. Però, scrive Le Figaro, la Germania sarebbe pronta a sostenere il governo francese. Questo è un altro grande tema dell'Unione Europea. Una volta c'era uno storico asse tra Germania e Francia, che venivano sempre considerate un po' i paesi forti e anche quindi alleati con gli stessi interessi. Sapete che l'asse si è un po' incrinato, però tornerebbe, secondo Le Figaro. La Germania quindi sarebbe pronta a sostenere il governo francese in cambio però di una serie di dichiarazioni da parte di Hollande, il presidente, e del suo governo, di un preciso programma di riforme economiche e sociali. Nel giorno in cui appunto Parigi, 3 giorni fa, ha inviato ufficialmente a Bruxelles il progetto di bilancio, che rischia tra l'altro, lo vedremo, di essere respinto per la violazione degli impegni sulla riduzione del deficit, la Germania sarebbe pronta a sostenere il governo, e tra l'altro naturalmente con in prima linea l'impegno di Angela Merkel, che però, facendo la maestrina un po' dalla penna rossa, un ruolo che evidentemente un po' la diverte non solo con noi ma anche con Parigi, chiede appunto modernizzazione del mercato del lavoro per rendere l'economia francese più competitiva. Torniamo su un argomento, passiamo a Financial Times, anche se poi la notizia viene riportata anche da Washington Post e altri giornali, a un argomento che abbiamo toccato nelle settimane scorse, forse lo ricorderete, ed è la vicenda del quotidiano economico indipendente russo Vedomosti, che tra l'altro aveva anche degli investitori stranieri. Sapete che Putin, un po' in questa sua generale presa di posizione contro l'Occidente, che lui considera anche a volte ostile dal punto di vista mediatico, ha deciso che i media russi non possono avere una proprietà anche solo in piccola parte straniera, e quindi Vedomosti appunto Sarebbe in vendita. Un'accordata di società vicino al Cremlino sarebbe pronta ad acquistare le quote del quotidiano economico che le straniere Dow Jones, Financial Times e Sanoma dovranno vendere entro il 2016, come previsto appunto da questa legge che Putin aveva ventilato più volte. Noi l'avevamo riportato questa cosa, e poi in realtà la legge è stata proprio firmata pochi giorni fa. E questa legge impone agli editori il tetto del 20% a partecipazioni non russe, come avevamo detto. Questo è un po' visto come un rischio, perché naturalmente più variegato è l'azionariato, e soprattutto in un paese come la Russia, se nell'azionariato degli editori ci sono anche società straniere, forse è più facile avere un certo grado di indipendenza, o forse meno difficile diventare una sorta di velina del Cremlino. Invece c'è una, a proposito insomma, di rassegna stampa europea e di come si cerca di coprire le notizie a livello europeo, vi segnalo un interessante rapporto che si chiama proprio Reporting the EU, the European Union, pubblicato dal Reuters Institute for the Study of Journalism, e che è stato ripreso da tanti quotidiani stranieri. La sintesi di questo rapporto, che tra l'altro ha due autori, John Lloyd e un'italiana, Cristina Marconi, è che i media raccontano bene l'Unione Europea, ma lo fanno in modo un po' elitario. Speriamo che la cosa non ci riguardi, noi cerchiamo di non essere affatto elitari, però insomma i quotidiani internazionali, le agenzie di stampa, le riviste specializzate e anche i siti a volte hanno un'informazione che è un po' troppo, complicata, un po' troppo tecnica e anche troppo poco accattivante, magari esaustiva, ma non abbastanza accattivante. Sappiamo che oggi, proprio perché siamo sommersi da informazioni e notizie, è importante anche, non dico passare dalla parte dell'infotainment, cioè una vera e propria via di mezzo tra l'intrattenimento e l'informazione, però cercare di essere, insomma, di non essere noiosi, ecco, sostanzialmente. Un'altra conclusione di questo rapporto è che in generale a Bruxelles mancano delle redazioni fisse, non è una sede di corrispondenza. Forse questo cambierà, noi ce lo auguriamo, anche se questo desiderio magari anche di alcuni giornali si scontra poi con il fatto che ci sono poche risorse ormai nei giornali, che tante sedi di corrispondenza anche magari in zone calde del pianeta vengono chiuse per semplici questioni di spending review, per usare un altro termine un po' abusato in questi giorni. Passiamo a El País, il quotidiano spagnolo, che sempre a proposito di paesi in crisi, e questa volta degli aiuti che l'Unione Europea aveva concesso alla Spagna nel momento più grave della loro crisi, secondo El País, El País cita fonti della Commissione Europea, la Spagna dovrà recuperare gli aiuti concessi al governo di Mariano Rajoy sotto forma di sgravi fiscali ad alcune delle grandi aziende del paese come Telefonica, Banco Santander e Iberdrola, per facilitare, perché questa è considerata, questi aiuti vengono considerati, sapete, aiuti illegali, cioè con violazione della concorrenza, è uno dei tanti rischi che i governi corrono quando vanno direttamente in soccorso di aziende private. Vicepresidente commissario alla concorrenza Joaquín Almunia esige infatti dal Ministero delle Finanze il recupero di tutti gli aiuti fiscali concessi a questa azienda, e sarebbero in realtà varie migliaia di milioni di euro. A proposito di un'altra questione che viene da lontano, ma ormai investe tutta l'Europa, ed è quella di Amazon. Amazon, sapete, il più grande sito, una volta potevamo dire il più grande sito di vendita di libri online, poi ha cominciato a vendere musica, adesso si trova qualsiasi cosa su Amazon, dal cucchiaino per mangiare il pompelmo, lo so perché l'ho comprato qualche giorno fa, all'aspirapolvere, ai libri. E però sui libri sì, c'è una protesta di molti editori, perché quella di Amazon viene vista come una concorrenza sleale. In America si sono mobilitati scrittori, editori, agenti letterari, e ora, scrive l'Eseco, si organizza anche un fronte anti-Amazon in Europa. Il settore dell'editoria si mobilita contro questo gigante statunitense, tanto che il Centro Nazionale Francese del Libro ha proprio preparato questa dichiarazione europea per il libro. In questi giorni, sapete, c'è stata anche la fiera del libro, la Buchmesse a Francoforte, è stata sicuramente un'occasione per fare il punto anche su questo. Quanto però Amazon sia contrastabile è un po' tutto da vedere. Un'ultima segnalazione che vi faccio, perché si collega sul tema della cultura, è da una rivista romena, Dilema Vece, che la segnalazione l'ho presa da presseurope.eu, il sito che cito spesso spesso che fa questo lavoro di tradurre anche da lingue che sicuramente non sono facilmente accessibili, è un articolo che si intitola "Il fatturato della cultura è più elevato di quello dell'automobile", e ci sono alcune considerazioni dove si spiega che gli investimenti in cultura sono a medio ma anche a breve termine forse più addirittura rendono di più che quelli in altri settori. Ci sono tanti esempi su quanti investimenti in cultura fanno i singoli paesi e anche l'Unione Europea nel suo complesso, e si ricorda che questo era anche una dei valori espressi dal Trattato di Lisbona. L'ultima segnalazione che riesco a farvi, ancora un buon sabato da Giulia Crivelli. Rassegna Stampa Europa, in collaborazione con Euronet Plus.